RMG W. Se. Oh, chiudi un'altra barra con l'ennesimo inglishoma, inglesismo gratuito per gente da Soma. La testa bassa senza mai guardare avanti, con paraocchi fatti di schermi lucenti. È così che vi vedo dall'alto del mio monte, un'orda di formiche che sa falla inutilmente. Il mio orizzonte si estende all'infinito, indico la luna e tu mi guardi il dito. Da quassù il cielo è così blu, così diverso dall'inferno laggiù. Una bianca caligine ricopre tutto quanto, non sai più distinguere un diavolo dal santo. Sei solo una schimota che ci sta rota di condizionamento e di riscaldamento. Sei più odioso di un fiore petaloso, con i semi di lemma ti mando a riposo. Armageddon è tornato, ma veramente non me n'ero mai andato. Ben trovato, ti sei ripigliato dopo che rischiaramento t'aveva abbagliato. Non capisci, peccato, di roba da dire tu ne hai quanto un impiccato. Sarà il delirio in tutto il bel paese, perché sono passato dall'occulto al palese. Ti sembra statico, tu mi sembri sbottico, non sai cosa vuoi, allora fai ciò che devi. I problemi tuoi diventano anche i miei, vedi, accetti questo mondo pure per i tuoi eredi. Stiamo arrivando al Kali Yuga, e tu nel tempo libero stai a fare kraga kraga. Sei una piaga, ci vuole un nuovo Oga ad usare come feticcio tipo quello di una maga. Cosa vuoi dirmi? Sei in catarte, ti autodistruggi per produrre arte. Puoi provarci, può funzionare, ma solo un dio del rock diventa immortale. La tua noia mi manda in paranoia, il tuo stress mi annoia. Con il mio flusso ti spingo in orboia, ti lascio zitto e muto come una che ingoia. Armageddon è tornato, ma veramente non me n'ero mai andato. Ben trovato, ti sei ripigliato dopo che rischiaramento t'aveva abbagliato. Non capisci, peccato, di roba da dire tu ne hai quanto un impiccato. Sarà il delirio in tutto il bel paese, perché sono passato dall'occulto al palese. Con i neologismi dell'avventuriero, il cavaliere nero arroccato nel maniero, vola come uno sparviero, come un avvoltoio. Ti mando all'obitorio, dritto dallo spogliatoio. Ti infierisco sulla tua carcassa, staccando in un morso ad ogni colpo di cassa. Ma quale fossa non ha senso, t'appendo ancora vivo alla torre del silenzio. Magia W, no, non ne posso più di te, che dal tuo tubo finisci in TV. Io velluto vulcanico, faccio scoppiare il panico come un attentato dello Stato Islamico. Sei oldroico come Agnoletto quando dichiarò vittoria al G8. E vorrei abolire tutte quante le nazioni, tu sei solo un lavabater come Graziano Cioni. Armageddon è tornato, ma veramente non me n'ero mai andato. Ben trovato, ti sei ripigliato dopo che rischiaramento t'aveva abbagliato. Non capisci, peccato, di roba da dire tu ne hai quanto un impiccato. Sarà il delirio in tutto il bel paese, perché sono passato dall'occulto al palese. Armageddon è tornato, ma veramente non me n'ero mai andato. Ben trovato, ti sei ripigliato dopo che rischiaramento t'aveva abbagliato. Non capisci, peccato, di roba da dire tu ne hai quanto un impiccato. È già il delirio in tutto il bel paese, perché sono passato dall'occulto al palese.